24, i gialli della storia. Nel 1994 la televisione olandese manda in onda un filmato in cui è documentato un caso di eutanasia, cosa perfettamente legale in Olanda, ma in qualche modo tenuta fino allora sempre un po' nascosta. Il filmato provoca reazioni di vario tipo in tutto il mondo, che abbracciano naturalmente problemi morali, religiosi, sociali e politici. A distanza di più di 20 anni da quell'avvenimento, la politica italiana non è ancora riuscita a identificare una strada precisa per affrontare il problema della dolce morte. Sono ancora presenti nella nostra memoria i casi di Pier Giorgio Welby, di Eluana Englaro, quando si è a lungo dibattuto sui limiti e l'opportunità dell'accanimento terapeutico, fino a conseguenze finite nelle aule dei tribunali. Oggi a Mix24 proponiamo quell'inchiesta con i commenti di allora di Eugenio Scalfari, Furio Colombo, Stefano Rodotà e del cardinale Ersilio Tonini. Anno 1994, Olanda. Un appartamento dignitoso, una coppia di anziani, una storia individuale che riguarda l'umanità intera. Un uomo seduto in carrozzella, maglione rosso, gli occhi azzurri dietro gli occhiali pesanti. Accanto a lui, la moglie, spia sulle sue labbra parole che escono con la fatica di un gemito. È arrivato il momento, non rimandiamo più. Quest'uomo ha chiesto al suo medico di aiutarlo a morire. Il medico ha già deciso. Fra poco gli inietterà un potente veleno. Kees van Wendel de Jood morirà il 3 marzo del 94, la notte del suo 63esimo compleanno. La sua scelta naturalmente è individuale e non ha nulla a che fare né con il tipo né con la gravità della malattia. Il gruppo di studio di bioetica della Società Italiana di Neurologia segnala che altri malati hanno fatto scelte radicalmente differenti, facendo ricorso alle più recenti conquiste biotecnologiche, come l'alimentazione e la ventilazione artificiale e come l'uso di sintetizzatori vocali computerizzati. Una conferma diretta viene dal produttore del filmato olandese, Leo Schenk. Nel corso del mio lavoro ho incontrato molti malati, anche persone affette dallo stesso male che aveva colpito Van Wendel, il protagonista del filmato. Tra loro ce n'erano in condizioni molto peggiori, che riuscivano ad esempio soltanto a fare cenni con gli occhi, che però mi hanno detto: nella mia condizione voglio ancora vivere. Gli olandesi, che si credevano abituati a tutto, sono sconvolti e telefonano all'emittente. Avete fatto bene a trasmettere il filmato, avete fatto male. In poche ore, migliaia di telefonate e mille domande. Dove finisce l'eutanasia e comincia l'assistenza al suicidio? O forse è meglio parlare di omicidi? E qual è il limite tra accanimento terapeutico e una morte dignitosa? E ancora, dove finisce il dolore fisico e comincia il dolore morale? A poche ore dalla trasmissione olandese, la Chiesa Cattolica ribadisce la sua condanna all'eutanasia. Il 22 ottobre l'Osservatore Romano titola «Una sfida brutale» e definisce il documentario una provocazione avvilente per chi invece ritiene la morte un atto sacrale, religioso, dipendente da Dio. E la polemica rimbalza di giornale in giornale, di titolo in titolo. Il New York Times, come aiutare un uomo a morire. Le Monde, eutanasia televisiva in Olanda. Il Sunday Times, il furore dell'eutanasia. Il Corriere della Sera, la cronaca vera di una eutanasia alla TV olandese. La Repubblica, primo caso di eutanasia trasmesso in TV. Per provare a capire meglio, ascoltiamo alcuni brani del filmato. Amsterdam. Come ogni mattina, il dottor Von Ooyen inizia la sua giornata. Un caffè e poi via all'ambulatorio per le visite ai primi pazienti. Fra i pazienti del dottor Von Ooyen c'è un uomo con una malattia incurabile. Il suo nome è Cornelis von Wendel, ma la moglie lo chiama Kees. Kees ha chiesto di morire. Il dottor Von Ooyen ha promesso di aiutarlo. Gli ha detto: quando sentirai che è arrivato il momento, chiamami ed io verrò. Il suo è come un grido d'aiuto. D'altronde, cos'altro posso dare a quest'uomo? Nessuno è in grado di offrirgli un'alternativa. Sì, gli possiamo procurare le migliori tecnologie per aiutarlo a comunicare, per aiutarlo a farsi capire dagli altri, una macchina da scrivere o un computer. Possiamo dargli la sedia a rotelle più sofisticata, ma alla fin fine sono solo palliativi. Non siamo in grado di offrirgli un vero aiuto, perché a questa malattia non c'è rimedio. Salve, Kees. Come va? Ah, giusto, anch'io dovrei darle la sinistra. Bene, vedo che è arrivata la sedia a rotelle. Sì, una come si deve. Le cose stanno peggiorando, sì. È caduto un paio di volte. Ma finalmente adesso abbiamo la sedia. È molto peggiorato. Sì, sì, sono rimasto colpito. Non ci vediamo da 2 settimane e mezzo, mi sembra, non è vero? Ho ricevuto una lettera dalla sua neurologa e dice che, almeno così mi ha scritto, che lei non desidera assolutamente entrare in ospedale, non è vero? No, lui non vuole andare in ospedale. Rifiuta anche il respiratore artificiale. Dice che sarebbe ridotto a un vegetale. Lei sta dicendo che rifiuta la respirazione artificiale e ogni tipo di rianimazione e che vuole il diritto, fra virgolette, di decidere per se stesso. Per questo vuol stare a casa. Non si sa mai cosa potrebbero fargli in ospedale. E poi teme di non essere più in grado di esprimere la sua volontà. Ho notato che le sue condizioni sono peggiorate nelle ultime settimane. Perciò penso che inizierò subito le pratiche ufficiali per la richiesta di eutanasia. Così, quando riterrà che sia giunto il momento, e se lo vorrà ancora, non dovrà aspettare. Io penso che sia meglio sistemare tutto, no? Non dobbiamo aspettare più. Io trovo che è veramente coraggioso. Veramente, molto sì. Coraggioso. Sì, certo, ma è difficile. Sì. Non riesce a controllare le sue emozioni. No, nessuno ci riesce in simili circostanze. Io credo che chiunque fosse peggiorato come lui, sole 2 o 3 settimane, sarebbe sconvolto, è naturale, certo. Già. Non è facile. Ma anche per il medico che deve eseguire il trattamento è un momento molto difficile. Lei è credente? Sì, in un certo senso, non che vada in chiesa, ma credo che esista qualcuno, qualcosa. Credo di dover adempiere a un compito che mi è stato affidato, di dover dare un senso alla vita. Ecco, credo che bisogna cercare di rendersi utili agli altri. E il comandamento non uccidere? Non ci pensa mai? Beh, io non ho nessuna intenzione di prendere una pistola e di fare una strage, neanche per idea. In questo senso, vede, per me uccidere è veramente la cosa peggiore che si possa immaginare. Ma è una cosa completamente diversa quando si tratta di persone che io come medico ho il dovere di aiutare e di fare in modo che non soffrano più a lungo di quanto non vogliano soffrire. È una cosa molto diversa. Lei mi ha anche detto che quando una persona sa che quando è arrivato il momento lei è pronto ad aiutarla, alla fine tende a vivere più a lungo. Sì, è vero. Sono convinto che stabilendo un buon rapporto con i miei pazienti, loro sanno di potersi rivolgere a me, di poter arrivare fino a dove se la sentono. Sì, ma penso che i miei pazienti riescano comunque a resistere più a lungo, proprio perché sanno di potersi rivolgere a me nel momento in cui non ce la fanno più. Io li libero dalla loro paura. L'istante in cui bisogna agire si avvicina a grandi passi. Si avvicina sempre di più. Si sta avvicinando. E velocemente. È questa la sensazione che prova? Sì, credo che non ce la faccia più. Ci sono ancora dei momenti buoni, ma ormai sono più quelli brutti. Sì. Solo una settimana fa eravamo qui seduti a berci un bicchierino insieme E ci siamo... Sì. Ci siamo fatti anche qualche risata. Ma adesso invece non è così. Ma se lei che è ancora propenso come me, lei lo sa che noi abbiamo avviato le pratiche per l'eutanasia. Per me però è importante sapere che la vuole ancora fare, che è ancora convinto della sua decisione, oppure può anche dire, può ancora dire non facciamolo, perché sarebbe del tutto normale. Lo vuole ancora più di prima. Sì, sì. E non lo sente come una minaccia, come se... Al contrario. No. D'accordo. Lo sente più come una liberazione. Sì, sì. Una liberazione. Anche per lei è dura, dottore? Diciamo che non sono venuto qui sulle ali dell'entusiasmo. Senta, Cass, vuole che aspettiamo ancora un po', oppure vuole che... Non rimandiamo. È tutto il giorno che aspettiamo. Adesso cerchiamo di non rimandare più oltre. Come vuole, che possiamo anche farlo domani o dopodomani. Gli avevo detto, stai partendo per un viaggio e non mi porterai con te. Mi ha risposto, però ti dico dove vado. Prendo la Via Lattea verso l'Orsa Maggiore. Potrai trovarmi lì. È il 3 marzo del 94, nel giorno del suo compleanno, Cees van Wendel muore. L'Olanda e il Belgio sono stati i primi paesi in Europa a legalizzare l'eutanasia, ma la legalizzazione non elimina i problemi morali che si propongono ogni volta che viene effettuata questa scelta così difficile. E i commenti dei nostri osservatori privilegiati tradiscono tutta l'emozione che la visione del filmato provoca. Ma se è lecito aiutare uno a morire per non soffrire, cioè se la tenerezza, la sofferenza di un'utilità di qualcuno è tale da giustificare che lo Stato rompa il principio fondamentale del rispetto, mi domando, quando domani ci fosse un'utilità pubblica, che si fa? È già pronta la risposta. Proprio quel Parlamento europeo che aveva votato il sì alla eutanasia per 152 voti contro 52, questi dicevo di italiani, è lo stesso Parlamento che a un certo momento ha approvato, presso poco con lo stesso scarto, ha approvato la legalizzazione della sterilizzazione coatta di malati psichici. Sono sobbalzato nel momento in cui l'iniezione viene somministrata, perché è esattamente la stessa iniezione del carcere americano in cui si dà la pena di morte per iniezione. Sì, questa è un'esecuzione. Perché ha le caratteristiche, voglio dire, è un'esecuzione. È un'esecuzione voluta, liberamente decisa dal condannato, il quale sa di essere condannato e dà la possibilità legale di scegliere il momento in cui la condanna venga eseguita. Lo Stato può legittimare la morte di chi lo desidera. A questo punto però è rischioso, perché quando allora ci fosse il delinquente che è assassino e che ne fa morire di tanti di morte, se è lecito accontentare uno che chiede di morire per non soffrire, non sarà lecito allora che lo Stato faccia fuori di autorità uno che è rischioso, che uno che uccide gli altri? E siamo alla pena di morte di nuovo. Che però torna dappertutto. Ma di secondo, ma allora se ci fosse un appestato, un malato di AIDS che rischia di far malare tutti gli altri, ma che facciamo? Allora dovremmo dire, quando è rischioso, eccetera, a questo punto lo si faccia fuori per il bene dello Stato. È Hitler, siamo Hitler. Le prime 10 morti sono estremamente solenni, drammatiche, delicate. Le seconde 100 sono un pochino più affrettate, perché intanto si è trovata una procedura, poi si arriva alla millesima dove si mette un timbro. Ecco, quel momento è talmente terrificante che benché tutte le intenzioni che vengono prima siano estremamente civili e pensate dal punto di vista dell'alleviare la sofferenza, è qualcosa che non può mai essere burocratizzato. È terribile l'idea che si possa burocratizzare la vita e la morte. Il rischio che una legge in materia di eutanasia apra la strada a una sorta di routine burocratica esiste. E infatti i primi provvedimenti che sono stati presi in questa materia, e cito sempre la legge olandese, si preoccupa proprio di evitare che tutto questo diventi routine e invece significhi assunzione di una responsabilità da parte del medico, ma non soltanto da parte del medico, dei suoi colleghi, della magistratura, e quindi non sia, come dire, una procedura quasi automatica. Date certe condizioni si arriva a una conseguenza, ma è l'oggetto di una scelta anche tormentosa e difficile per lo stesso medico. L'uomo ha scelto, moralmente dovrò dire sbaglia, ma il problema che noi poniamo quando si parla dell'eutanasia non è questo, il problema è se per carità, per bontà, per venire incontro a un desiderio suo, io abbia il potere di distruggere la vita. Io sarò, perché ho imparato dai contadini, ma io ho imparato una cosa molto semplice, la vita tu non la dai e la vita tu non la togli. La radice della libertà è nella conoscenza. Il maiale che non ha tanto conoscenza non è libero. Allora, ecco, il posto principale di guida è data alla conoscenza e è data all'autodeterminazione. Questo è il grande punto. Se io sono solo libertà, capacità di decidere, evidentemente qualsiasi cosa io decido è bene. Allora sono io il costruttore dei valori. Ecco la reazione di Heidegger, che per il quale credere che l'uomo sia in grado di produrre valori, intendo valore di fondo, certo. Valore di fondo. L'artista certo che produce valori, il politico produce valori, ma laddove c'è la materia, direi, pronta, che si è presta, ma non quando si tratta di sostanza, della vita, di valore di fondo. Ecco perché c'è una carta costituzionale. Il rischio è che una soluzione come questa, per il fenomeno giuridico che si chiama l'analogia giuridica, porti con sé non soltanto la legittimazione dell'eutanasia, no, ma il principio che ci sta di sotto, che sia la mia libertà capace di liberare un altro dai suoi doveri, che se lo fa il singolo, se il singolo è libero di cambiare, di decidere di autorizzare un altro, molto più lo può fare lo Stato. Naturalmente qui intervengono dei fattori religiosi, cioè io lo dico con facilità, nel senso che non ho quel tipo di condizionamenti o di fede, ecco. Però mi rendo pur conto che chi ce l'ha dice io non posso, non sono in grado di, non ho il diritto di confiscare a Dio un potere che è suo e non mio. Questo mi pare che sia l'atteggiamento religioso. Quindi chi lo fa, non importa se è autorizzato, richiesto, eccetera, si sostituisce indebitamente a Dio. Ma chi crede fermamente in Dio potrebbe anche invece dire non si sostituisce. È il braccio di Dio. Perché chi si può sostituire a Dio per chi ci crede? In questi anni c'è stato un grande cambiamento. Tutta una serie di decisioni che riguardavano la salute e la vita individuale non sono più affidate soltanto al medico, sono state sempre più affidate al paziente, all'interessato che ha diritto di scegliere, può rifiutare il trattamento medico e quindi in questo modo dispone della sua vita, perché se rifiuta un intervento chirurgico, se rifiuta una certa terapia, decide in quel momento di morire. Questo ormai è ammesso dappertutto, ovunque si ritiene che la scelta individuale sia il punto di partenza, e quindi possiamo dire che la vita ormai è qualcosa che appartiene all'interessato, quale che sia la sua credenza. Quando io dicevo che il pensiero deve essere la guida della vita nella nostra tradizione occidentale, non dicevo allora, non mi confondevo col razionalismo puro, in forza della quale nella notte tutte le vacche sono nere, come diceva Hegel. No, non così. Ma il pensiero mi aiuta a dar valore alle cose che accadono in me. Un conto è un movimento di stomaco, un conto è un'emozione, un conto è un po' di tenerezza, un conto è un po' di attrazione, un conto è un po' di rabbia, un po' di tifo, eccetera, eccetera. Ma la mia mente deve a un certo momento dire, un momento, questo tifo va bene o non va bene? Se io devo andare a Milano, devo andare a Genova e mi porto dietro quel che mi porto dietro, evidentemente devo sapere che domani posso, la prepotenza dell'istinto mi può portare a fare dei gesti, per cui poi Simone dirà in quella lettera splendida: non volevo, non volevo, non volevo. Ecco dove la volontà non è criterio, l'autodeterminazione, criterio finale di verità e di bene, proprio perché a un certo momento la volontà è trascinata, quel ragazzo la volontà l'ha trascinata, o meglio la volontà è stata trascinata dall'istinto. Allora è la mente che deve giudicare, è la mente che mi dice: questo è mio padre e questo è mia madre, questo è mio padre, questo è mio fratello, questo è un uomo. Quando io penso a Pascal che dice: sogno il momento nel quale un uomo incontrando l'altro uomo non dirà: questo è medico, questo è bambino, questo è avvocato, questo è contadino, ma dirà: questo è un uomo. Il dibattito è acceso, le divergenze sono evidenti e giustificate. Intanto il 20 dicembre del 2006 a Pier Giorgio Welby viene staccato il respiratore, come aveva ripetutamente chiesto, e dopo pochi minuti muore. Il medico anestesista, dottor Mario Ricci, che ha eseguito la procedura, che era stato raggiunto dall'imputazione di omicidio del consenziente, è stato definitivamente prosciolto il 23 luglio del 2007 perché il fatto non costituisce reato. Ma nonostante questa sentenza, è indubbio che è indispensabile che la politica si esprima velocemente su questi argomenti che stanno così a cuore all'opinione pubblica. Questo film vi dice uno dei grandi temi che fra poco arriveranno in Parlamento. E quando arriveranno questi temi, finalmente la politica riacquisterà la sua dignità. Questo è il momento le più grandi sfide del mondo, perché quando i valori fondamentali morali arrivano al diritto, quando cioè si trasferiscono nel diritto, in quel momento un popolo sceglie la propria civiltà.